Victoria. Tommy cadde senza un suono. Solo quando arrivò a circa un metro dall'acqua lanciò un grido, per poi sparire tra i flutti scuri. Victoria restò affacciata al parapetto. Un paio di secondi dopo, Tommy ricomparve in superficie, agitando le braccia e urlando con tutto il fiato che aveva in gola. Victoria controllò che non fosse uscito nessuno, per poi accendersi la sigaretta e tirare una boccata profonda. Le funzioni vitali si sarebbero interrotte prima che arrivasse a riva. Sarebbe morto congelato. Non le era sembrato una persona cattiva, ma cosa ne sapeva lei? Guardò l'ora. Ormai dovevano essere già sulla rotta di ritorno verso Stoccolma. Rientrò nel salone della festa, dove la band stava ancora suonando. La bionda cantava a squarciagola, piegata all'indietro, con il viso rivolto al soffitto. Nessuno si era accorto di niente. Victoria rioccupò lo stesso posto di prima e ordinò un bicchiere di vino. Si sentiva tranquilla. Di lì a circa un'ora, la nave avrebbe attraccato al molo di Nio Brocaien e lei sarebbe sparita senza farsi notare. La gente era ormai così ubriaca che nessuno si sarebbe ricordato di lei. Ma poi, che cosa avrebbe fatto? Sarebbe tornata in Russia? Ripensò ad Al e si sentì scaldare in tutto il corpo. Le piaceva molto, l'aveva trattata bene. Non come Yuri, ma era comunque uno che ci sapeva fare con le donne. Un vero uomo. Forse alla fine avrebbe accettato il suo invito a passare il Natale con lui a Barbados. Ma fino ad allora...